Ambiente, dopo 3 anni di dibattimenti e dopo la terza fiducia, passa e passata ieri alla Camera la legge delega. Verdi, ambientalisti e opposizione parlano di una vera e propria deregulation in materia ambientale. Noi siamo in collegamento telefonico con l'onorevole Verde Marco Lion, membro della commissione alla Camera, la commissione ambientale. Bene, onorevole, prima ancora di entrare nel merito della faccenda, quindi di andare a vedere quali saranno le norme che cambieranno, il suo commento politico, da dove nasce secondo lei l'idea, la necessità anzi della Casa delle Libertà di intervenire politicamente in maniera ambientale? Insomma, ce n'era veramente bisogno? È stata una forzatura della Casa delle Libertà? Ma tanto per rendersi conto del livello di forzatura, tenete presente che questa delega ambientale approvata ieri contiene delle norme che riguardano le concessioni edilizie in sanatoria nelle aree protette, che erano state praticamente già modificate dalla Casa delle Libertà nel centrodestra il 1° maggio di quest'anno. Quindi questo per dire, no, l'urgenza e diciamo che ha questo provvedimento, non ha alcuna urgenza, sono state cambiate normative tipo la legge sui rifiuti, il cosiddetto decreto Ronchi, no, che recepisce gli indirizzi della Comunità Europea, che è lo stesso una legge recentissima. La verità purtroppo è che hanno voluto modificare le leggi ambientali perché vogliono rispondere attraverso una deregulation formale e sostanziale e attraverso dei sistemi, diciamo, legislativi estremamente discutibili perché favoriscono determinate lobby, dicevo, vogliono modificare le leggi a favore di qualcuno e di qualcosa, e poi magari ne parliamo un attimo. Ecco, infatti, onorevole, entriamo nel merito. Sono ben 7 gli argomenti nelle quali, insomma, le norme introdotte da questa legge delega si andrà a legiferare. Dai rifiuti, come lei diceva, una delle cose più preoccupanti, al condono. Ci vuole spiegare un po' quali saranno le cose che cambieranno, dunque? Ma guardi, praticamente loro hanno voluto una delega che è smisurata nei suoi contenuti. Non esiste nella storia della Repubblica una delega di questo genere che riscrive praticamente 7 materie, che non sono materie semplici. A parte i rifiuti abbiamo la tutela delle acque, la difesa del suolo, le aree protette, la valutazione di impatto ambientale, l'inquinamento atmosferico. Cioè qua si vuole fare tabula rasa di quanto negli ultimi 20 anni si è via via realizzato in Italia per adeguare il nostro paese agli standard europei e internazionali sulla tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Quindi è un'operazione devastante, è una delega amplissima, addirittura non saranno i parlamentari a riscrivere questi testi unici, non sarà il Parlamento a discuterne. Il Ministro nominerà 24 esperti, suoi esperti, rifaranno le leggi. Quindi un'esautorazione della Camera praticamente. Esatto, all'esproprio del Parlamento, del ruolo del Parlamento. È un dato gravissimo ed è l'unica legge in questa legislatura che ha avuto 3 richieste di fiducia, cioè nessun'altra legge ha avuto richieste di questo tipo, e le ragioni sono legate agli interessi a determinate lobby che hanno tutto l'interesse ad andare a una deregulation, a una tra virgolette semplificazione. In realtà vogliono mani libere per poter guadagnare di più attraverso un'eliminazione dei controlli e una semplificazione delle norme. C'è un caso proprio evidente dentro questa legge delega. Nelle norme di immediata applicazione si fa riferimento alla partita dei materiali ferrosi e non ferrosi. Attraverso questa norma si intende semplificare il trasporto, la commercializzazione di questi materiali. Questo significa, e si sta già verificando in Italia, che nel nostro paese stanno entrando rifiuti ferrosi provenienti dall'est europeo che sono radioattivi e che stanno per arrivare alle nostre acciaierie. Nella mia regione, nelle Marche, hanno sequestrato 2 pescherecci appena costruiti che erano stati realizzati con delle lamiere radioattive. In un'altra deposito che serve a una fonderia sono stati sequestrati altri materiali ferrosi radioattivi. Allora, che significa per un'azienda avere semplificato una serie di norme? Significa risparmiare enormemente, perché logicamente lo Stato tutela i cittadini attraverso una serie di controlli, attraverso delle richieste, dell'autorizzazione, attraverso una verifica dei passaggi che magari questi rifiuti fanno tra una società e l'altra, attraverso una verifica del trasporto di queste scorie che girano per l'Italia finché non trovano l'acciaieria compiacente. Ecco, allora togliendo tutte queste norme di controllo, logicamente c'è un risparmio incredibile da parte di queste aziende. E una norma del genere, tra l'altro, è stata già condannata dalla Corte di Giustizia Europea alcuni giorni fa. Quindi noi abbiamo approvato in Parlamento una norma che è già stata soggetta a una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, e la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia e ha richiesto che cambiasse la norma. Oggi abbiamo approvato quella norma lì, è una cosa demenziale. Un'ultima domanda, come lei diceva è la terza volta, insomma, questa legge delega è passata prima dalla Camera, poi al Senato e poi è tornata alla Camera, insomma di fatto è legge. Ci sono era la quinta lettura questa. Alla quinta lettura. Che gira, sì. Ecco, sì. Ci sono dei principi che si possono sollevare di incostituzionalità in modo che o Ciampi o addirittura la Corte Costituzionale blocchino questo scempio ambientale, come lei sta dicendo? Diciamo che Ciampi potrebbe utilizzare questa norma sui materiali ferrosi e non ferrosi per rimandarla alla Camera, almeno per questi aspetti. Per altri aspetti sicuramente potrebbe intervenire sulla copertura di questa legge, che prevede delle coperture del 2004 che non sono applicabili. Su altre questioni generali, tipo gli aspetti urbanistici, siccome c'è un esproprio delle capacità da parte degli enti locali, regioni, provincia e comuni in gestione urbanistica, le stesse regioni italiane potrebbero portare la legge alla Corte Costituzionale.